Dal 27 agosto sono arrivati voli charter dal Tel Aviv ad Olbia con a bordo travestiti da turisti, soldati dell'esercito israeliano in vacanza premio. In Sardegna è partita subito una mobilitazione di protesta all'aeroporto di Olbia e oggi, 2 settembre, si è tenuto un presidio di fronte all'hotel Resort Mangias in località Santa Reparata, Santa Teresa di Gallura, dove i soldati israeliani saranno in vacanza. Il presidio si propone oggi e nei prossimi giorni di mantenere una presenza di disturbo e di protesta. Siamo qui con due delle partecipanti al sit-in che si è appena concluso, alle quali insomma chiediamo di raccontarci questa insomma, giornata di oggi e quali sono le iniziative che si propongono per i prossimi giorni. Stamattina abbiamo saputo che due pullman di israeliani erano alloggiati in un albergo qua a Santa Teresa. L'albergo è il Mangias di Santa Reparata, quindi abbiamo cercato con un po' di amichette di andare a creare un'azione di benvenuto, tra virgolette, ai soldati dell'IDF, perché a quanto pare sono proprio i militari che hanno bisogno di una vacanza dallo stress ad essere ospiti nella struttura qua a Santa Teresa, e non siamo d'accordo col fatto che siano presenti nel nostro territorio, e quindi cercheremo di dargli tutte le sere o comunque tutti i giorni far capire con la nostra presenza che non siamo benvenuti nella nostra terra. La cosa che abbiamo voluto evidenziare, stando là, parlando al megafono con gli altri ospiti della struttura, era proprio questa, che stanno convivendo nello stesso tempo con dei criminali di guerra, degli assassini, senza nessuna vergogna di questo, senza nessun senso di colpa, che vengono qua appunto per rilassarsi e evidenziare come questo la dice lunga sulla retorica della guerra che ci propinano tutti i giorni, che i mass media continuano a proporci tutti i giorni davanti a un genocidio, davanti a uno dei peggiori crimini della storia a reti unificate che tutto il mondo vede ogni giorno. Come si può pensare che questa sia una guerra dove una parte manda i propri militari con il contributo e l'ospitalità di altri governi complici a rilassarsi tra un omicidio e l'altro, mentre gli altri sono lì costretti, che non possono uscire, che non possono mangiare, che non possono ricevere cure, bombardati, sotto i cecchini, violentati in qualsiasi modo. Questa non è una guerra, volevamo dire questo, l'abbiamo detto in più lingue, in modo che chiunque fosse lì potesse capire. Ed è stato così perché alcuni ospiti si sono avvicinati, hanno parlato con noi in diverse lingue, si sono fatti spiegare la situazione, l'abbiamo potuta spiegare. Non sono mancati i troll sionisti che si sono avvicinati dicendo che volevano riflettere con noi sul fatto che chi lo dice che quelle persone che sono là sono assassine. Beh, ripeto, davanti a un esercito che non è in guerra, ma è lì solo per sterminare un popolo, è sicuro che sono degli assassini, non c'è poco di cui opinare. Non sono mancate neanche le intimidazioni da parte di Mangias, che comunque una realtà, come possiamo definirla, un franchising molto potente in Sardegna che si sta piano piano mangiando qualsiasi tipo di imprenditoria locale per quanto riguarda le strutture ricettive. E non lascio immaginare quale tipo di realtà quindi capitalista abbiamo davanti. Non ci aspettiamo quindi nessun ragionamento etico da parte loro. Non sono mancate intimidazioni quando una persona che lavora lì in un momento in cui era fuori dal tempo di lavoro e quindi era semplicemente un cittadino libero di manifestare, è venuto con noi a manifestare ha ricevuto delle minacce di perdere il lavoro. Vedremo come andrà avanti la cosa, cercheremo di monitorare anche questo. Chiaramente le nostre forze sono piccole perché noi siamo tutte persone che lavorano in questo periodo. A Santa Teresa si vive di turismo, quindi noi stiamo lavorando, però allo stesso tempo ci teniamo a mantenere la nostra presenza lì, per ribadire tutti questi concetti che abbiamo espresso, per chiedere aiuto anche a chi è solidale con la Palestina a venire a fianco a noi a manifestare. Nei prossimi giorni c'è appunto l'idea di proseguire con il sit-in, quindi far sentire la protesta in maniera costante. Voi avete anche, insomma, magari volete lanciare un appello per richiamare chi è in zona, chi può spostarsi, che magari può venire, se c'è un appuntamento che possiamo lanciare. Allora, proprio dal ragazzo lavoratore, forse ex purtroppo, che si è unito alla nostra protesta, abbiamo saputo che ne stanno per arrivare un'altra novantina di militari che saranno ospiti sempre del Mangias. Quindi abbiamo intenzione di proseguire comunque in queste azioni di disturbo. Seguiteci magari sulla pagina Facebook Lungoni per la Palestina, dove tutte le iniziative che verranno prese saranno lì pubblicizzate. Magari chi si trova in zona e voglia comunque venire a darci una mano e aiutarci perché la nostra protesta sia più di peso, con più persone ci sono, sempre meglio è. Come avrà raccontato anche la compagna di Afora Associonistas, in Sardegna si sta cercando di fare più manifestazioni, più sit-in, più azioni di disturbo, perché queste persone hanno già il pacchetto pronto. Le abbiamo le date, magari le ha già dette la compagna, ma nel caso le ripeto. Il volo del 31 è già arrivato, poi ce ne sarà uno il 4 dalle 10 alle 10:55, un altro l'8, sempre allo stesso orario, così il 12, il 16 e infine il 20 settembre alle ore 14, alle ore 16. Le iniziative da fare sono tante perché noi vogliamo rendergli la vacanza un qualcosa che gli faccia capire quanto la società civile nel mondo è disgustata di tutto ciò, e loro possono avere dalla loro parte i governi, ma non hanno dalla loro parte l'umanità, e questo lo devono capire. Magari non gliene frega niente perché sono fuori oramai da ogni, non lo so, veramente senso umano, Del però diritto. è importante che lo capiscano. Grazie.